Adesso l'energia quando c'è la mamma, quando sono vicchi. l'energia ce l'hanno, loro non si stancano mai. Tu pensa che io quando andavo a Umbria, che avevo preso la casa lì in estate, andavamo di notte a Porto Cervo, girevamo sino alle 4 di mattina, lei aveva due occhi aperti, spalancati, non si dormiva nemmeno, non si stancava mai, mai, sino alle 4 di mattina lì era sveglia. E per il suo farò queste cose, adesso comincia a toccare lì. Non le tutti gli oggetti che si possono rompere perché comincia a toccare tutta la parte interna. E oggi mi aveva fatto tutto l'impianto, la diluce e il lusso, ho fatto andare qua perché qua non c'era. C'era una presa, ho fatto il capo, me l'ho messo. Esterno. Che cosa? L'impianto del nostro. Beh, a chiodine l'ho messo come nel muro, l'ho passato lì. Ma se non c'è fatto un altro sistema. E ci sono anche quelle, come si chiamano? Quelle guide in plastica per non vedersi il filo. Vabbè, tanto è sotto. Ah, se sotto non si vede. Se vuoi fare una cosa ben fatta, li metti quelle guide, tanto sono adesive, l'attacchi al muro e poi gli metti il filo dentro e chiudi, non si vede niente. Lo so. C'è tutto il canaletto, tutto il giorno, anche per gli altri si cose, ma a tardi più passato. A far culo. E il capo dell'antenna dove l'hai fatto passare? Sala, c'è dove dovrebbe stare, in sala. Detto, dove l'ho fatto passare? Dalla finestra, dal muro, da dove l'ho fatto passare? Dalla finestra. Hai fatto il buco? E lì adesso dove ho fatto il buco ci metti a parlare di silicone come ho fatto io. Ho messo il silicone, non si vede nulla, perché vabbè la mia finestra è bianca, l'ho messo il silicone bianco, non si vede niente. Comincia a dire mamma. No, già lo dice già. Ah, lo dice già? Sì, anche papà. Visto. Allora è precoce. No, già è molto attivo già. E tua sorella cosa dice quando lo vede così? Fate, è bravo, Questa è quell'età che ti sciolgono proprio. Lo so. Ti vai, non brodo di giuggiole, ti vai. Quando li vedi così, sono così teneri, così belli. Non so come ti va, di raietta tratta male di figliori, boh. Chissà che l'ha lasciato rasura per andare con un compagno, l'ha lasciato in casa senza mangiare, senza nutrire un figliore, che se l'ha fatto prima. A che sono andati? Io non capisco, cioè, però io capisco che tu c'hai un altro uomo, ok, però portatela presa a tuo figlio, al limite lo vuole un'altra stanza, se ti paga anche altre cose, se lo metti in un'altra stanza lo fa addormentare, quando dormi tu vai chi se devi fare, però cazzo, lascialo solo in casa, con una creatura che non è manco autonoma per mangiare, per fare tutto, lo lasci così da solo. Lasciamo perdere, come si fa? Cosa vuoi fare? Sono andati, sono in Italia. No, per me non ci ragionano con la testa certe persone. Poi, il genitore solitamente fa di tutto per i figli, questa gente qua, chi non c'ha i figli li vorrebbe, chi ce li ha li tratta male, ma te ne immagini? Cosa vuoi fare? Oh, ma sono andati, sono. Come quello che ha ammazzato la bizzina, lui adesso se lo mettono in galera lo mettono in malattie detenuti da base l'ha visto. Ma se lo sono peggio detto. Sì, ma queste cose qua i detenuti non le possono sopportare né quando tratti male i bambini, né quando violenti le donne, né quando le ammazzi, capito? sono mai stato in galera, ho sentito dire da gente che la galera l'ha visitata, perché qua vicino a casa ce n'è che sono stati dentro e mi hanno parlato di certe cose. Quando io esco col cane trovo sempre a uno che è stato dentro e adesso è tranquillo, però ha passato anni e anni dentro, è stato a Mamone, è stato certo di questo e mi ha detto che praticamente queste cose qui non le sopportano. Vedo che dico le volte, perché magari hanno fatto anche reati, ma tranne che quello. E quindi un po' di muschi forte. Quando non ti fanno anche altri.